Mettiamole cose in chiaro. Deadpool è un personaggio della Marvel e non è un eroe, però è super. Parla tantissimo, a sproposito, fa battute politicamente scorrette e sessiste, è volgare, uccide i cattivi come se fosse un gioco di stile, prende in giro gli X-Men e gli attori che interpretano gli X-Men, è immaturo e se necessario picchia anche le donne. Deadpool sta al punk come Batman e Iron Man stanno ai pomposi gruppi progressive rock. Ma Deadpool, sotto il suo strato di battute, ha anche una storia di amore e di vendetta. Sì, perché Wade Wilson, ex mercenario divenuto poi un cattivo che viene pagato per pestare i tipi peggiori di lui, prova un amore per la sua ragazza che è totale, immenso. Sono una coppia perfetta, il loro primo incontro è un qualcosa di epico ed è un bel dito medio a tutte le melense storie d'amore che vediamo su schermo. E a ben pensare, Deadpool è un gran bel dito medio a tutti i supereroi derivati dai fumetti che Hollywood ci ha propinato in tutti questi anni. Il film si muove su due filoni narrativi. Cosa ha portato Wade Wilson a diventare Deadpool e la vendetta di Deadpool. Avrete capito che è l'antitesi dei supereroi classici. Non è un film per famiglie. Da superpoteri non derivano grandi responsabilità. È l'esatto opposto e ne va fiero. Perché tutto il film è uno sforzo continuo nel ribaltare completamente l'immagine che il cinema ci ha dato degli eroi dei fumetti. Spesso maledetti, tenebrosi, ma politicamente corretti senza macchia, e a parer mio a lungo andare anche un po' pallosi. In tutto questo contesto Deadpool è una boccata d'aria fresca, perché può piacere o non piacere, ma è un urlo liberatorio contro una omologazione ormai dilagante, e anche solo per questo motivo è meritevole di attenzione. Le sue spalle sono fantastiche, creano situazioni comiche e demenziali. Abbiamo i due X-Men, Colosso e Megasonica, che vogliono redimerlo e farlo diventare un vero supereroe come loro. Lui però per tutta risposta li prende in giro e li manda a quel paese. Il suo amico barista è veramente forte con tutte le sue battute ciniche. Abbiamo poi la vecchia anziana nera, cieca, che cerca di montare un mobile dell'IKEA. E poi il tassista indiano, con i suoi problemi d'amore. E sono tutti a servizio della pellicola per creare situazioni irriverenti che non vedremo mai in nessun altro film sui personaggi dei fumetti. E l'intento è chiaro fin da subito e si vuole esagerare. Fondamentalmente vuole essere dissacrante e cambiare le regole del gioco ad Hollywood, perché lo stile, il divertimento, la possibilità di fare quello che si vuole solo perché lo si vuole e si pensa che sia fico sono cose importanti, quando tutti gli altri invece fanno sempre la stessa identica cosa. Abbiamo tanti degli elementi classici del genere, ovvero l'acquisizione dei superpoteri, lo sviluppo del costume, la vendetta, la storia d'amore, ma sono tutti filtrati dalla mente assurda di Deadpool per dare un calcio in culo alle convenzioni. Non ci sono neanche combattimenti su larga scala, tutto sommato, come ci hanno abituato certi film. Qua la dimensione è più intima, quasi per mostrare al meglio la peculiarità di Deadpool, poiché lui esagera a modo suo. E per non farci mancare niente, infrange anche la quarta parete, ovvero quel muro invisibile che c'è tra gli attori e gli spettatori, per cui il nostro antieroe si permette di parlare direttamente con noi. E nulla di strano, perché per intenderci nel fumetto era conscio di essere un fumetto, per cui va bene così. Il budget è stato piccolo per una produzione del genere, 58 milioni di dollari, segno che Hollywood sapeva che stava imbarcandosi in una scommessa. Vincente però. C'è da domandarsi quanto tutto questo influenzerà le future produzioni cinematografiche derivate dai fumetti, perché in America è uscito come vietata ai minori di 16 anni e nonostante questo ha sbancato il botteghino. Io sono contento, perché significa che si può ancora osare, ribaltare le regole a cui siamo abituati e che ad Hollywood c'è spazio ancora per andare controcorrente. Per cui tirate fuori il teenager sfrontato e incosciente che è dentro di voi, a meno che non lo siate veramente, e in questo caso tanto meglio. Buona visione.